Libro dei Giubilei 15 Festa della primizia del grano. E nel quinto anno del quarto settennio di questo giubileo, a metà del terzo mese, Abramo fece la festa dell'inizio della mietitura del grano. Ed offrì, oltre all'offerta della primizia del grano, la nuova offerta al Signore, vacca, caprone e pecora, sull'altare, in olocausto al Signore ed offrì sull'altare il loro sacrificio e la loro bevanda insieme con incenso. E gli apparve il Signore e gli disse, «Io sono il Dio onnipotente, sii mi gradito e sii perfetto ed io darò il mio patto, fra me e te, e ti farò assai grande». E Abramo cadde faccia a terra e il Signore gli parlò e gli disse, «Ecco il patto con te. Io ti costituisco padre di molti popoli. Il tuo nome non sarà più Abramo e sia, invece, da oggi e nei secoli, Abramo poiché ti ho nominato padre di molti popoli, ti farò grande assai, ti darò popoli e, da te, sortiranno re. Io ti do il mio patto fra me, te le generazioni dopo di te, nelle loro discendenze, per legge eterna, che io sia Dio a te e alla tua stirpe, dopo di te, nelle loro discendenze. La terra dove sei trasmigrato, la terra di Canaan che tu amministri, in eterno, e che io sarò il loro Dio. E il Signore disse ad Abramo, ed osserva anche tu il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te. E voi circonciderete i vostri prepuzi e questo sarà il segno del patto eterno fra me e te e per le generazioni. All'ottavo giorno circonciderete tutti i maschi nelle vostre famiglie. Il figlio nato in casa è quello che avrete comprato. Per denaro, da qualsiasi forestiero e che possedete e che non è della tua discendenza, siano circoncisi. Sia circonciso il nato nella tua casa e quello che hai comprato con denaro. E sia il mio patto, nella vostra carne, per legge eterna. E l'anima di tutti i vostri maschi che non saranno stati circoncisi, e, di, colui che non si sarà circoncisa la carne del prepuzio nell'ottavo giorno, sia strappata di mezzo ai suoi simili poiché egli avrà violato il mio patto. E il Signore disse ad Abramo, Sarai, tua moglie, poiché il suo nome è Sara, non si chiamerà più Sarai. Io benedico e ti darò da lei un figlio. Lo benedirò, diverrà una nazione e da lui saranno re di popoli. E Abramo cadde faccia a terra, si rallegrò e disse in cuor suo, che forse uno di 100 anni genera un figlio e Sara, che è di 90 anni, genera. E Abramo disse al Signore, conviene che Ismaele viva al tuo cospetto. E il Signore disse, «Va bene. E anche Sara ti genererà un figlio e tu lo chiamerai Isacco ed io pongo in eterno il mio patto con lui e per le generazioni dopo di lui. E anche per quanto riguarda Ismaele, io ti ho esaudito. Ed, ecco, lo benedico e lo farò grande». Lo moltiplicherò assai ed egli genererà 12 principi ed io lo preporrò su un gran popolo. Ed io pongo il mio patto con Isacco che Sara ti genererà nell'anno prossimo, in questo giorno, e il Signore, avendo terminato il suo discorso con lui, salì al di sopra di Abramo. E Abramo fece come il Signore gli aveva detto, prese suo figlio Ismaele, tutti nati in casa nonché quelli che aveva acquistato con danaro, tutti i maschi della sua casa, e circoncise la carne del loro pene. In questo stesso giorno si circoncisero Abramo e tutti gli uomini della sua casa e, insieme con lui, furono circoncisi tutti coloro che egli aveva comprato, con denaro dagli stranieri. E questa legge è per tutte le generazioni, in eterno, e non vi è circoncisione temporale e non vi è trasgressione di un sol giorno rispetto all'ottavo giorno, poiché è una legge eterna, stabilita e scritta nelle tavole del cielo. E tutti quelli che sono nati e non si circoncidono la carne delle pudenda fino all'ottavo giorno, non appartengono ai figli del patto che il Signore promise ad Abramo ed appartengono, invece, ai figli della corruzione non vi è, quindi, su di essi, alcun segno che essi appartengano al Signore, dato che essi sono destinati alla corruzione, a perdersi e ad essere dispersi dalla terra, poiché hanno violato il patto del Signore, nostro Dio. Poiché, fin dal giorno della loro creazione, così è la creazione di tutti gli angeli facei e di tutti gli angeli della santità, ed egli considerò gli angeli della santità per la santità e santificò Israele affinché gli israeliti fossero con lui e con i suoi angeli santi. E anche tu ordina ai figli di Israele che rispettino il segno di questo patto sia per tutte le loro generazioni, a legge eterna, sia per non esser dispersi dalla terra. Poiché, a proposito di questo patto, per tutti i figli di Israele, fu stabilito l'ordine di osservarlo in eterno, dato che il Signore non aveva avvicinato a esse, Ismaele e i suoi figli, i suoi fratelli ed Esau, poiché li conosceva, sebbene fossero figli di Abramo, non aveva scelto fra essi. Scelse, invece, Israele perché divenisse il suo popolo, lo santificò e lo riunì, fra tutti i figli dell'uomo, sotto la sua tutela. Egli, infatti, ha molti popoli e molte genti, tutti sono suoi e, su essi, egli dette agli spiriti il potere di farli errare da dietro a lui, ma non dette ad alcun angelo o spirito il potere su Israele, poiché egli solo è il loro principe, li protegge e li rivendica, per esse, dalle mani dei suoi angeli, dei suoi spiriti e di tutti sì che tutti rispettino i suoi comandamenti. Egli li benedica, essi siano suoi ed egli sia loro, da oggi, nei secoli. E fin da adesso io ti dico che i figli di Israele verranno meno a questo patto e che i loro figli non saranno, secondo tutta questa legge, circoncisi perché, per quanto riguarda la carne della loro circoncisione, essi ometteranno la circoncisione dei loro figli e tutti loro, figli di Beleor, lasceranno i loro figli così come sono nati, senza circoncisione. E vi sarà, sui figli di Israele, grande ira da parte del Signore poiché avranno violato il suo patto, si saranno allontanati dal suo comando, saranno irosi e blasfemi e non adempieranno, secondo la loro norma, a questo segno poiché avranno reso esse stessi come i popoli ad esser tolti e dispersi dalla terra. E non vi è, dunque, per essi remissione e perdono perché faccia remissione e condono di tutti i peccati, per questo errore eterno. 16. E all'inizio del quarto mese apparimmo ad Abramo presso la quercia di Mamre, parlammo con lui e gli annunciammo che gli sarebbe stato dato un figlio dalla moglie Sara. E Sara, poiché seppe che noi avevamo detto questa cosa ad Abramo, rise. La rimproverammo? Ella ebbe paura e negò di aver riso di questa cosa. E le dicemmo il nome del figlio così come esso era scritto sulle tavole del cielo, Isacco. E, quando tornammo da lei al tempo giusto, ella concepì il figlio. E in questo mese il Signore fece la condanna di Sodoma e Gomorra e di Sebuem e di tutte le regioni del Giordano. Le bruciò con fuoco e zolfo e Lea, fino ad oggi, distrutte in conformità a come io ora ti ho annunciato tutto il loro modo di agire, come erano malvagi e grandi peccatori, essi erano impuri, fornicatori e facevano cose turpi sulla terra. Così il Signore, laddove si operi in conformità della corruzione dei sodomiti e della loro condanna, fa giustizia ovunque. Ma Lot il Signore lo salvò perché si ricordò di Abramo e lo fece scampare dalla distruzione. E fece, egli e le sue figlie, sulla terra peccato del quale non vi fu il simile, dai tempi di Adamo fino ai suoi tempi, poiché l'uomo si giaceva con le sue figlie. Ed, ecco, è stato inciso e deciso su tutta la sua stirpe, nelle tavole del cielo, che li allontani, li disperda e li condanni come condannò Sodoma e che non gli faccia sopravanzare ogni discendenza, nella terra degli uomini, nel giorno del giudizio. E in questo mese Abramo partì da Ebron e soggiorò tra Cades e Sor, nei monti di Gerar. E a metà del quinto mese partì di là e soggiornò al pozzo del giuramento. E a metà del sesto mese il Signore visitò Sara, le fece come aveva detto, ed ella concepì e generò il figlio. E nel terzo mese, alla metà, nel giorno che il Signore aveva detto ad Abramo, nella festa della prima mietitura, nacque Isacco ed Abramo circoncise il figlio all'ottavo. Egli si era circonciso prima, secondo il patto stabilito per l'eternità. E nel sesto anno, in questo mese del quarto settennio, venimmo presso Abramo, al pozzo del giuramento e, come avevamo detto a Sara, che saremmo ritornati da lei ed ella concepì un figlio e ritornammo nel settimo mese, la trovammo incinta al nostro cospetto, la benedicemmo e le annunciammo tutto quel che ci era stato ordinato per lui, che egli non sarebbe morto finché fossero nati sei figli e che egli li avrebbe visti prima di morire e che, in Isacco sarebbero stati denominati, per lui, nome e stirpe. Che tutte le discendenze dei suoi figli avrebbero formato dei popoli e sarebbero state annoverate tra i pagani e che, dei suoi figli, solo Isacco sarebbe stato destinato a essere santa progenie, e non sarebbe stato considerato fra i pagani. Poiché era a parte dell'Altissimo e fra coloro che il Signore, essendo disceso, tiene in suo dominio sì che tutta la sua progenie sia progenie del Signore, popolo della successione ereditaria fra tutti i popoli, e sia regno, sacerdozio e popolo santo. E noi andammo per la nostra via e dicemmo a Sara tutto quel che avevamo detto a lui ed ambedue gioirono di grandissima gioia. festa dei tabernacoli. E costruì colà un altare al Signore che lo aveva salvato e reso felice sulla terra del suo esilio, e fece gran festa, in questo mese, per 7 giorni, vicino all'altare che aveva costruito al pozzo del giuramento. E costruì tende per esse, e per i suoi servi, in questa festa, e celebrò per primo la festa dei tabernacoli. In questi 7 giorni Abramo offriva ogni giorno, sull'altare, in olocausto al Signore, 2 vacche, 7 pecore, e un capretto per chiedere, a causa dei peccati, con esso, perdono per esse, e per la sua progenie, e per sacrificio di salvezza, 7 caproni, 7 agnelli, il loro sacrificio, e le loro bevande, e, sul tutto bruciava, sull'altare del sacrificio, incenso dal bel profumo, gradito al Signore. All'alba e a sera bruciava profumi di incenso, di galbano, di olio di mirra, di nardo, di mirra, di spiga aromatica e di cupostrofo oste. Tutti questi 7 offriva pestati, in egual misura, commisti e integri. E fece una tal festa per 7 giorni, rallegrandosi con tutto il cuore e tutta l'anima, lui e tutti quelli che erano nella sua casa. E non vi era alcun estraneo con lui né, tutti quelli che non erano circoncisi. Ed egli benedì il suo creatore che lo aveva creato nella sua stirpe, perché lo aveva creato con benevolenza sapendo, ed essendo certo che da lui sarebbe la pianta di giustizia per le generazioni, in eterno. Ed un seme santo sì che divenisse come colui che aveva fatto il tutto. E benedì il suo creatore, si rallegrò e chiamò questa festa, festa del Signore, gioia del gradimento al Signore eccelso. E noi benedicemmo, in eterno, lui e tutte le stirpi dopo di lui, in tutte le generazioni che in eterno sulla terra, perché al suo tempo aveva fatto questa festa secondo la testimonianza delle tavole del cielo. Perciò fu stabilito sulle tavole del cielo, a carico di Israele, che celebrassero la festa dei tabernacoli, per 7 giorni, in allegria, nel 7° mese, ricevette, al cospetto del Signore, la legge eterna nelle loro generazioni, per tutti gli anni e gli anni. E non vi è, a questa, termine di tempo poiché è stabilito in eterno, a carico di Israele, che la celebrino e stiano nel tabernacolo, che si pongano corone sul capo e che prendano dal ruscello rami di foglie di salice. E Abramo prese germogli di palma e frutti di alberi belli e, ogni giorno, girava intorno all'altare coi rami, 7 volte al giorno e, all'alba, lodava e confidava, con gioia, ogni cosa al suo Signore. XVII. E nel 4° anno, nel 5° settennio di questo giubileo, Isacco lasciò la mammella e Abramo, nel 3° mese, nel giorno in cui Isacco si era divezzato, fece un grande banchetto. E Ismaele, figlio di Agar l'egiziana, nel luogo, innanzi ad Abramo che gioì e benedì il Signore perché aveva visto i figli e non era morto senza parole. E ricordò le parole che gli aveva detto quando Lot si separò da lui. E si rallegrò perché il Signore gli aveva dato una discendenza, sulla terra, c'ereditasse la terra e benedì, con tutta la sua bocca, il creatore di tutto. E Sara vide Ismaele giocare e saltellare e Abramo gioire di gran gioia, ebbe invidia di Ismaele e disse ad Abramo, «Manda via questa serva e suo figlio, sicché il figlio di costei non erediterà insieme con mio figlio Isacco». Queste parole, agli occhi di Abramo, furono motivo di dolore a causa della sua serva e di suo figlio, che egli doveva mandar via da esse. E il Signore gli disse, «Non vi sia dolore, innanzi ai tuoi occhi, a causa della serva e del fanciullo. Ascolta tutto quel che Sara ti ha detto, e fallo, poiché, in Isacco, saranno chiamati, in tuo favore, nome e discendenza. E, quanto al figlio di costei, io ne farò un grande popolo, poiché egli è del tuo seme». E Abramo si alzò di buon mattino, all'alba, prese pani e borraccia d'acqua, ne caricò Agar e il fanciullo, e la mandò via. Ed ella andò vagando nel deserto di Bersabea. L'acqua della borraccia finì, il fanciullo ebbe sete, non pot più camminare e cadde. La madre lo prese, lo mise sotto un olivo, se ne andò e si mise di fronte a lui, a circa un tiro di freccia, dicendo, «Che io non veda la morte di mio figlio». E, così, stando, pianse. E lei disse l'angelo di Dio, uno dei santi, «Che cosa ti fa piangere, Agar? Alzati, prendi il fanciullo e prendilo per mano poiché il Signore ha ascoltato la tua parola». Ella vide il fanciullo, aprì gli occhi e vide un pozzo d'acqua. Vi si reò, riempì la borraccia d'acqua, diede da bere al suo fanciullo, partì ed andò verso il deserto di Poeran. Il fanciullo crebbe, divenne tiratore e il Signore stava con lui. La madre gli dette una moglie dalle figlie di Egitto e gli generò un figlio ed egli lo chiamò Nebaiot poiché ella diceva, «Il Signore mi fu vicino quando lo chiamai». E il giorno 12 del primo mese del primo anno del settimo settennio di questo giubileo, vi fu una voce nei cieli, a proposito di Abramo, di come egli era fedele in tutto quel che gli diceva lo amava perché, in tutte le calamità, egli era fedele. E venne il principe Mastema e disse al Signore, «Ecco, Abramo ama suo figlio Isacco e se ne compiace più di tutto. Digli che lo offra in sacrificio sull'altare e vedrai se esegue questo ordine e saprai se egli è fedele in tutto quello in cui lo provi». Il Signore sapeva che Abramo era fedele in tutte le calamità che gli aveva ordinato, poiché lo aveva provato con la sua terra, con la siccità e con ricchezze da re, e lo aveva provato, poi, con la sua donna, quando essa fu rapita, e con la circoncisione lo aveva provato con Ismaele e con la sua serva Agar quando li mandò via. E, in tutto quello in cui lo aveva provato, egli era stato trovato fedele, non si era infastidito e non aveva esitato ad agire perché era fedele ed amante del Signore. Diciotto. E il Signore disse ad Abramo, «Abramo», e gli disse, «Eccomi, Signore». E gli disse, «Prendi Isacco, il figlio tuo che ami, e va nella terra elevata ed offrilo in olocausto in uno dei monti che io ti indicherò». E si alzò di buon mattino, all'alba, caricò la sua asina, prese con esse, due suoi servi e il figlio Isacco, spaccò la legna del sacrificio e si reò, nel terzo giorno, nel luogo e lo osservò da lontano. Arrivò fino al pozzo dell'acqua e disse ai suoi servi, «State qui con l'asina. Io e il fanciullo andiamo ad adorare e, dopo aver adorato, torneremo presso di voi». E prese la legna del sacrificio e la caricò sulle spalle del figlio Isacco, prese il fuoco e il coltello e tutti e due, insieme, andarono fino a quel luogo. E Isacco disse a suo padre, «Padre!» E gli disse, «Eccomi, figlio mio! Ecco qui il fuoco, il coltello e la legna. Dov'è la pecora destinata al sacrificio?» E Abramo disse, «Il Signore si procurerà la pecora del sacrificio, figlio mio», e si avvicinò al luogo del monte del Signore. Costruì l'altare, vi mise la legna sopra, legò il proprio figlio Isacco, lo pose sulla legna che era sull'altare, e stese la mano per prendere il coltello per uccidere Isacco. Io stavo davanti a lui e davanti al principe Mastema e il Signore disse, «Digli di non calare la sua mano sul fanciullo e di non fare alcun che contro di lui, poiché io so che egli è timorato del Signore». E il Signore lo chiamò dal cielo e gli disse, «Abramo, Abramo», e questi si spaventò e disse, «Eccomi». E gli disse, «Non stendere la tua mano sul fanciullo e non farà alcun che contro di lui, perché io ora so che tu sei timorato del Signore e che non mi hai negato il tuo figlio primogenito». Il tiranno Mastema si vergognò. Abramo alzò gli occhi e vide un caprone impigliato in un cespuglio per le corna. Andò, lo prese e lo offrì in olocausto invece del proprio figlio. E Abramo chiamò quel luogo, «Il Signore ha visto», affinché quel monte di Sion si chiamasse, «Il Signore ha visto». E, appena noi apparimmo per parlargli in nome del Signore, il Signore chiamò Abramo per nome una seconda volta dal cielo, e disse, «Io, disse il Signore, poiché hai eseguito questo ordine e non mi hai negato il tuo figlio primogenito che ami, giuro sul mio capo che, benedire, ti benedirò e moltiplicare. Moltiplicherò i tuoi discendenti come stelle del cielo, e come la sabbia del lido del mare. E, giuro che, i tuoi discendenti erediteranno i paesi dei loro nemici e, che, nella tua progenie, saranno benedetti tutti i popoli della terra, dato che hai ascoltato la mia parola ed hai dimostrato a tutti di essermi fedele in tutto quel che ti dico. Vai in pace». Abramo andò dai suoi servi, partirono e si recarono, insieme, a Bersabea e Abramo fissò la dimora presso il pozzo del giuramento e fece questa festa, ogni anno, per 7 giorni in gioia e la chiamò, la festa del Signore, in conformità ai 7 giorni nei quali era andato e se n'era tornato in pace. E così è scritto e stabilito nelle tavole del cielo a proposito di Israele e della sua stirpe per quanto riguarda il compimento di questa festa, per 7 giorni, in allegria. XIX. E nel primo anno del primo settennio del 42° giubileo, Abramo tornò e dimorò di fronte a Hebron, cioè a Kiriat Arba per 2 settenni. E nel primo anno del terzo settennio del giubileo si compì il tempo della vita di Sara e morì in Hebron. E Abramo andò a piangerla e a seppellirla e noi lo mettemmo alla prova, per vedere se il suo spirito era paziente e se non si indignava a parole della sua bocca. Ed egli fu trovato paziente anche in ciò e non si agitò, dato che, con pazienza di spirito, parlò con i figli di Eta affinché gli dessero un luogo ove seppellire il suo morto. E il Signore gli dette grazia al cospetto di tutti coloro che lo vedevano ed egli, con mansuetudine di cuore, chiese ai figli di Eta e gli diedero la terra della doppia caverna di fronte a Mamre, cioè Hebron, per 40 argento. Ed essi lo pregarono dicendo, te la diamo gratis, ma egli non prese nulla da loro gratis, poiché dette il prezzo della località in argento, tutto quanto. E poi si prostrò innanzi a loro due volte, e seppellì il suo morto nella doppia caverna. E tutto il tempo della vita di Sara fu 127 anni, cioè due giubilei, 4 settenni e un anno. Questo è il tempo degli anni della vita di Sara. E questa è la decima disgrazia con la quale fu provato Abramo ed egli fu trovato fedele e paziente di spirito. Ed egli, poiché fu trovato fedele, paziente, ed era iscritto nelle tavole del cielo come amico del Signore. Quando pregò, colà, di seppellire il suo morto, non disse parola a proposito del discorso che, riguardo alla terra, gli aveva fatto il Signore. Che, cioè, la avrebbe data a lui ed ai suoi discendenti dopo di lui. E nel quarto anno egli tolse in moglie per suo figlio Isacco, la figlia di Betuel, figlio di Naor suo fratello, la quale si chiamava Rebecca. Abramo si prese una terza moglie di nome Chetura, dai figli della sua casa, poiché, prima di Sara, era morta anche Agar. E costei gli generò sei figli, Zimran, Yokshan, Madian, Ishbak e Ishva in 2 settenni. E nel secondo anno del 6° settennio Rebecca generò 2 figli a Isacco, Giacobbe e Esau. Giacobbe era brutto e eretto. Esau era uomo duro, agreste ed irsuto. Giacobbe dormiva sotto la tenda. E i giovani crebbero e Giacobbe imparò a scrivere e Esau non lo imparò, perché era cacciatore ed agricoltore ed imparò l'arte della guerra e tutte le sue azioni erano aspre. E Abramo amava Giacobbe e Isacco amava Esau. Ed Abramo vide le azioni di Esau e seppe che il suo nome e la sua stirpe sarebbero stati chiamati in Giacobbe. Chiamò Rebecca e, poiché vide che, anche, lei amava Giacobbe assai più di Esau, le dette ordini riguardo a Giacobbe e lei disse, figlia mia, custodisci mio figlio Giacobbe, poiché egli sarà al mio posto, sulla terra, per la benedizione in mezzo ai figli degli uomini e, per tutta la stirpe di Sem, per la gloria, giacché io so che il Signore se lo sceglierà come popolo separato da tutti i popoli della terra. Ecco, Isacco, mio figlio, ama Esau più di Giacobbe ed io vedo te, amante della giustizia, a Giacobbe. Aumenta, allora, a fargli del bene e siano, i tuoi occhi, su di lui amorevoli poiché egli mi sarà di benedizione, sulla terra, da oggi fino a tutte le generazioni del mondo. Siano forti le tue mani e compiaciti di lui poiché io l'ho amato assai, più di tutti i miei figli. Il Signore, per mezzo di lui, sarà benedetto in eterno, e la sua discendenza sarà tale da riempire tutta la terra. Se l'uomo potrà contare la sabbia, anche la sua discendenza sarà contata. E anche tutte le benedizioni che il Signore partì a me stesso e alla mia discendenza, siano per Giacobbe e per la sua stirpe, in ogni tempo. Nella sua discendenza sarà benedetto il nome mio e quello dei miei padri Sem, Noè, Enoch, Mahalalel, Set ed Adamo ed essi saranno, per il fondamento del cielo, il rafforzamento della terra e il rinnovo di tutte le luci che sono sul firmamento. E chiamò Giacobbe alla presenza della madre Rebecca, lo baciò, lo benedì e gli disse: Figlio mio Giacobbe, caro, che la mia anima ama, ti benedica il Signore dall'alto del firmamento e ti dia tutte le benedizioni, con le quali benedì Adamo, Enoch, Noè e Sem e tutto quanto mi disse e promise che mi avrebbe dato, lo faccia aderire a te e alla tua stirpe, nei secoli, per quanto dura il tempo del cielo sulla terra. E non abbiano gli spiriti di Mastema potere su te e sulla tua stirpe per allontanarti da dietro al Signore che è il tuo Dio, da oggi all'eternità. E ti sia, il Signore il Dio, Padre e tu, sigli, figlio primogenito e popolo suo nei secoli. Vattene in pace, figlio mio. E ambedue uscirono dal cospetto di Abramo e Rebecca amò Giacobbe con tutto il cuore e tutta l'anima, assai più di Esau e Isacco amava Esau più di Giacobbe. 20. E nel 42° giubileo, nel primo anno del settimo settennio, Abramo chiamò Ismaele e i suoi 12 figli, Isacco e i suoi 2 figli. I 6 figli di Chetura e i loro figli ed ordinò loro di rispettare la via del Signore per fare giustizia ed amarsi l'un l'altro e di essere così, anche in ogni guerra per andare l'uno a favor dell'altro, e per attuare diritto e giustizia sulla terra. E di circoncidere i loro figli secondo il patto che egli aveva stretto con loro e di non deviare, n, a destra n, a sinistra, da tutte le strade che il Signore aveva loro ordinato, e di guardarsi da ogni impurità. E ordinò che noi smettessimo, fra noi, ogni impurità e fornicazione. Se fra di voi una moglie o figlia commette fornicazione, bruciatela col fuoco e non vadano, esse, appresso ai propri occhi e ai propri cuori. E che essi non si prendano moglie dalle figlie di Canaan perché la stirpe di Canaan sarà estirpata dalla terra. E disse loro: la condanna dei giganti è quella di Sodoma e come essi furon condannati per la loro cattiveria e per la fornicazione, l'impurità e la corruzione fra loro. E anche voi guardatevi da ogni fornicazione, impurità e da ogni contaminazione del peccato. Sì che non diate il nostro nome alla maledizione e tutta la vostra vita alla vanagloria e i vostri figli alla perdita nella turpitudine. Sarete maledetti come Sodoma e quelli che rimarranno di voi come i figli di Gomorra. Io vi dico, figli miei, amate il Dio del cielo e sottostate a tutti i suoi ordini. Non andate dietro alla loro impurità e ai loro idoli e non costruite, per voi, dei di metallo n, statue, poiché cosa vana ed essi, poiché sono opera dell'uomo, non hanno alcuno spirito e tutti quelli che confidano? In essi non confidano in nulla, non adoratele e non prostratevi ad essi. Adorate il Dio eccelso e prostratevi a Lui, sempre, sperate in Lui in ogni tempo e fate giustizia e rettitudine innanzi a Lui affinché Egli vi ami, vi dia il suo perdono e faccia scendere su voi. Mane e sera, la pioggia e benedica tutte le vostre opere che avete fatto sulla terra e benedica il tuo cibo e la tua acqua, il seme del tuo ventre e quello della tua terra e i greggi delle tue vacche e delle tue pecore. E tu sarai di benedizione sulla terra e tutti i popoli della terra ameranno voi e benediranno i vostri figli, nel mio nome, affinché siano benedetti come lo sono io. E dette doni a Ismaele, suo figlio, e ai figli di Chetura e li mandò via dal suo figlio Isacco. E Ismaele, i suoi figli, i figli di Chetura e i loro figli partirono insieme e si installarono da Parmon fino all'ingresso di Babilonia. In tutto il territorio che è verso oriente, di fronte al deserto e si mescolarono l'uno con l'altro e furono chiamati arabi ed ismaeliti. E, nel sesto anno del settimo settennio di questo giubileo, Abramo chiamò suo figlio Isacco e gli ordinò dicendo: «Io sono invecchiato e, poiché sono sazio del mio tempo, non conosco il giorno della mia morte. Io, ora, ho 175 anni e in tutto il tempo della mia vita sono stato a ricordare il Signore, a cercare, con tutto il mio cuore, di fare la volontà del mio Dio e di indirizzare il cammino su tutte le sue strade. La mia anima ha odiato gli idoli per attendere a fare la volontà di colui che mi ha creato, poiché egli è Dio vivo, santo, fedele, giusto più di tutti. In lui non vi è iniquità far favoritismi né ricever doni di corruzione, poiché è Dio giusto ed esecutore di condanna di tutti quelli che trasgrediscono il suo ordine e violano il suo patto. E anche tu, figlio mio, rispetta il suo ordine, la sua legge, e la sua autorità e non andare appresso agli impuri e dietro alle statue e agli dei di metallo. E non mangiare il sangue delle fiere, degli animali e di tutti gli uccelli che volano in cielo. E, se sgozzi, sgozza quel che si offre per sacrificio di salvezza. Sgozzalo. E verserai il sangue sull'altare e tutto il pingue olocausto, lo offrirai sull'altare insieme con farina e il sacrificio condito con olio, insieme con le libagioni. Offrirai tutto insieme sull'altare, sacrificio e soave profumo innanzi al Signore. Quale grasso del sacrificio di salvezza porrai sul fuoco, come grasso? Quello che è nel ventre è tutto il grasso che è sugli intestini e i due reni e tutto il grasso che è su di essi e sui femori e il fegato avvolto con i reni e offrirai tutto ciò per il bel profumo, gradito al Signore. Insieme col sacrificio e con le libagioni offrirai, per il bel profumo, il pane del sacrificio. Mangiane la carne nello stesso giorno e all'indomani, e non tramonterà su di essa. Fin quando sarà mangiata, il sole del giorno seguente, e non ne avanzi per il terzo giorno perché non gli è gradita, non è buona e non la si deve, dunque, mangiare. E tutti quelli che la mangeranno porteranno la loro iniquità. perché così ho trovato scritto nei libri dei miei antenati, nelle parole di Enoch e di Noè. E in ogni tuo sacrificio metti il sale, non sia non mantenuta la promessa del sale in tutti i tuoi sacrifici innanzi al Signore. E sta attento, a proposito degli alberi del sacrificio, a non introdurre alberi sacrificali all'infuori dei seguenti: cipresso, abete, mandorlo, pino, pino, cedro, erba sabina, tanac, olivo, mirto, lauro, cedro di nome, arbata e balsamo. Di tutti questi alberi poni sull'altare, al di sotto dell'olocausto, quelli esaminati nel loro aspetto e non porre alcuno di quelli che siano spaccati e anneriti. Poni alberi duri e non fragili, senza alcun difetto, perfetti, di nuova piantagione e non mettere albero vecchio. Perché è uscito il suo profumo e non vi è, dunque, in esso, profumo come prima. E, eccettuati quegli alberi, non vi è altro che tu mettere, poiché il suo profumo è separato, e la fragranza del suo profumo sale nel cielo. Osserva l'ordine e fa, figlio mio, in maniera da agire, in tutte le tue azioni, rettamente. Purezza rituale e generale. Sii puro in ogni tempo e lavati mani e piedi, con l'acqua, prima di recarti ad offrire sull'altare, e di avvicinarti ad esso e, quando hai compiuto l'offerta, ritorna, e lavati mani e piedi. E non appaia su di voi, sulle vostre vesti, il sangue. Guardati, figlio mio, dal sangue, guardati bene. Coprilo con la terra. E non mangiar, dunque, il sangue, poiché il sangue è vita, non mangiarne affatto. Non prender doni di corruzione a danno di tutto il sangue degli uomini per spargerlo inutilmente, e, senza giustizia, dato che il sangue versato impoverisce la terra e la terra non si può pulire dal sangue dell'uomo se non col sangue di chi lo versò. Non prender doni di corruzione e donativi a danno del sangue umano. Sangue con sangue. E vi esaudirà al cospetto del Signore, Dio eccelso e sarà protettore del bene affinché tu ti guardi da tutto il male ed egli ti salvi da ogni morte. Io, figlio mio, vedo tutte le azioni degli uomini, come peccati e cattiverie e come, ognuna di esse, è impurità, nequizia e contaminazione e non vi è giustizia con loro. Guardati, non andare sulla loro strada per calpestare le loro orme e non commettere errori mortali innanzi al Dio eccelso. Egli ti nasconderà il suo volto, ti metterà nella mano del tuo peccato. Disperderà te dalla terra e la tua stirpe da sotto il cielo e il tuo nome e la tua stirpe sarà cancellata da tutta la terra. Allontanati da tutte le loro azioni e da tutte le loro impurità e osserva la legge del Signore Altissimo, compi la sua volontà e sii retto in tutto. Ed egli ti benedirà in tutte le tue azioni e farà sorgere da te la pianta della giustizia in tutta la terra e in tutte le generazioni della terra ed egli conoscerà il mio ed il tuo nome, sotto il cielo, in ogni tempo. Va, figlio mio, in buona salute. Ti corrobori l'eccelso Iddio, mio e tuo Dio. al compimento della sua volontà e benedica tutta la tua progenie e il resto della tua stirpe nei secoli, con tutte le benedizioni di giustizia, affinché tu sia di benedizione in tutta la terra. E Abramo si allontanò da lui gioendo e allegramente.